arrivo sulla spiaggia con la focaccia calda e già qui in un attimo mi attiro addosso una smentita di carattere epistemologico. Si sente dire spesso che ciascuno si costruisce un mondo in piena autonomia, inconfrontabile con quello degli altri. Lo si dice per gli esseri umani, figuriamoci poi per gli animali. E invece i gabbiani, il mondo, almeno per quanto concerne le focacce calde, se lo costruiscono esattamente come me lo costruisco io. Tant'è vero che non ho fatto in tempo a disfare il pacchetto, che erano tutti già lì, percettivi e categorizzanti con un conformismo fra i più disdicevoli, un nugolo di predoni svolazzanti con piccioni al seguito. Ci hanno messo poco anche a capire che la focaccia, anziché lanciarla loro in bocconcelli caldi e prelibati, me la sarei mangiata io. Dalla prima all'ultima briciola, almeno nelle intenzioni. Ragion per cui, mentre il mio sguardo si perdeva nell'orizzonte ondoso, fra brezza marina e carboidrati morbidi sopra e croccanti sotto, lo stormo di gabbiani secchetato tutto intorno, schierandosi in rassegnati e fiduciosi. Fra le fiduciose, non mi si chieda come ho fatto a passare dai fiduciosi alle fiduciose, mi si sono fatte notare certe gabbianelle giovani con l'occhio vispo e tenero, più coraggiose degli altri nell'avvicinarmisi e nell'alludere a sottomissioni eventuali che ne avrebbero peraltro attenuato non poco l'immagine virtuosa. Fino a che si sono avvicinate a più ripresa, fino a che non è arrivato un gabbiano diverso. Costui l'avrei notato comunque. Più o meno della misura degli altri, si adornava tuttavia di 3 o 4 penne di gran pregio in coda, disegni più complessi, colori molto signorili. Era come uno con il paletò di puro cashmere in mezzo a gente con il misto lana e acrilico 30% della prima e 70% del secondo. Per farsi notare, costui si faceva notare anche senza l'eleganza dell'abito, perché fra i tanti era l'unico che avesse qualcosa da dire. Ha cominciato a pontificare a destra e a manca e proprio non la finiva più. Essenzialmente redarguiva, ammoniva, invitava a stare alla larga, ricordava le misure di sicurezza da mantenersi nei miei confronti, presumibilmente enumerava casi trascorsi in cui l'umano malfido lasciava cadere la focaccia per le allodole e addentava gabbiani imprudenti, camminava avanti e indietro scuotendo un po' la testa in avanti come se avesse le braccia dietro la schiena e camminava bofonchiando, vigile brontolone e custode dell'integrità di una stirpe che, per grazia divina o naturale, gli era stata affidata. In un minuto io e la mia focaccia ci siamo trovati al centro di un cerchio libero, un cerchio di sabbia libero da tutti i pennuti, tranne che da uno, che li teneva a bada tutti, arringandoli nel più protervo dei modi. Davanti come alle spalle avevo almeno un paio di metri di vuoto e tutto intorno quasi un centinaio di volatili. Così, fra le grida minacciose e l'oratoria petulante di quel gabbiano che da solo si opponeva alla deboscia dei tempi, la focaccia andava verso i propri minimi termini. E giunto che fui all'ultimo boccone, ecco che il rimorso nel vedere tanti attorno a me che la focaccia non l'hanno, e oltre il rimorso il mio senso della giustizia nel volere premiato chi al mondo si dà da fare con intelligenza e assiduità, ecco or dunque che rimorso e senso della giustizia mi inducono alla sosta di riflessione, con l'ultimo boccone in mano. Lui, lui continua a gracidare sermoni su sermoni a distanza ravvicinata, incurante del pericolo eventuale per sé e avendo invece cura della propria incauta genia. Gli altri continuano rispettosamente a stare al loro posto. Lo guardo. Lui si ferma e mi guarda. Vabbè, decido, vabbè. Questa te lo sei meritato, va? E gli lancio quel mio ultimo e delizioso boccone, che non gli arriva mai. Non gli arriva mai perché da dietro sono schizzate in avanti due di quelle gabbianelle che sembravano tanto vanesie, si sono avventate sul boccone, se lo sono tranciato in due, hanno fatto spallucce alla serie di insulti che si sono meritate dal custode della loro morale, hanno resistito ad ogni attacco e fatto orecchie da mercante ad ogni preghiera e se la sono filata via. E con loro se la sono filata tutti gli altri, che sanno bene quando una focaccia è finita. Tutti se la sono filata, tranne lui che ha preso a trotterellare silenziosamente per la spiaggia, sempre più curvo, come parlottando fra sé, con le mani dietro la schiena. È il destino degli intellettuali. Rimanere a pancia vuota, ignorati da tutti, dopo aver previsto tutte le catastrofi prevedibili e senza mai riconoscerne una che sia una. È il destino di chi mette più cura nel parlare che nel vivere.